Benissimo, dico due parole io, a nome ovviamente del nostro club. Noi siamo l'IBM Ring 223 di Milano. Questa è una serata un po' particolare. Abbiamo deciso di iniziare un po' l'anno in questo modo, presentando quella che è possibile diventi una nostra nuova sede, che è questa libreria, questo studio bibliografico che vedete oggi, molti lo vedono per la prima volta. Dicevo, questa è una serata particolare perché qua non ci sono tutti maghi, ci sono anche degli ospiti esterni che sono non maghi. Quindi questo lo dico ai maghi, dico ai non maghi che stasera qua tra le persone che vedrete ci sono dei maghi, ci sono dei maghi. Noi di solito ci riuniamo nei nostri club, parliamo dei giochi, però di solito sono delle riunioni riservate perché c'è un po' la Scusa, ma regola. noi Sì. è perché tu sei fra i maghi o fra i Io non sono tra i maghi? maghi, sono Ah, tra sei i fra i maghi, no, maghi. No, era io il sono super tra i maghi. alleuso, No, io scusami. sono noi ci troviamo, sono delle riunioni di solito riservate perché c'è questa idea che di mantenere un po' il segreto che sta dietro alla magia, però questa sera noi abbiamo voluto fare una riunione in cui parliamo un po' di storia dell'illusionismo e l'abbiamo aperta anche a tutte le persone che sono interessate. Quindi questo è, parliamo un po' del relatore di oggi e del libro un po' che ha scritto. Allora, Mariano per noi maghi è una figura importantissima, è un appassionato, uno storico della magia che ha scritto molti libri bellissimi, tra cui alcuni li vedete là, sulla storia dell'illusionismo. La cosa che ci piace molto è che Mariano non fa una storia dell'illusionismo, ma una storia polverosa, museale, di un passato che magari noi vogliamo incensare, ma invece tutta la sua produzione tende a farci vedere che la tradizione dell'illusionismo è una tradizione ricchissima che ancora oggi è all'avanguardia attuale. E quindi tutto il lavoro di Mariano è di far capire ai maghi che il Settecento tornerà di moda, è ancora attuale, l'Ottocento è ancora attuale, e molti degli effetti che lui racconta che appartengono al passato non appartengono al passato, appartengono alla contemporaneità. Di lui ricordiamo, ci piace molto ricordare almeno a me, i suoi due volumi sulla storia del mentalismo. Il mentalismo, per chi non lo sapesse, diciamo, è una branca dell'illusionismo, di cui Mariano è particolarmente appassionato e studioso. Lui ha scritto due volumi bellissimi sulla storia del mentalismo, un terzo uscirà. Cioè, ve lo chiedetelo a lui, quando uscirà il terzo? E lui risponderà. Segnalo, e poi parliamo del libro, anche la sua rubrica su YouTube, Mesmer in pillole. Adesso è un fenomeno contemporaneo, quello degli instant book. Capita che in libreria il giorno dopo che è successo qualcosa esce già un libro ed erano cose che potevano essere benissimo scritte in un post su Facebook. Capita al contrario, che ci siano dei podcast o delle serie web che invece sono talmente belle, talmente interessanti che valgono molto più di tutta un'intera produzione di una casa editrice, e questo è il caso di Mariano. Quindi non pensiate che, visto che sono video su YouTube, siano delle cose così divulgative e valgano poco. È oro davvero la sua serie di Mesmer in pillole, è oro, ha una serie di riflessioni ed effetti magici bellissima che vi invito a guardare, sia babbani che maghi, sia non maghi che maghi, insomma. Allora, quindi però adesso basta parlare dell'ospite, parliamo un po' di questo libro. Allora, io darei la parola a Mariano, ma vorrei introdurre il libro in questo modo. Allora, io mi sono cercato dei famosi incipit letterari. Cos'è l'incipit? Adesso io faccio anche il professore. Allora, l'incipit sono le parole con cui si apre un libro, quindi l'inizio del libro. Allora, alcuni famosi incipit. Allora, chiamatemi Ismaele, questo è l'incipit epico di Moby Dick. Vanità di vanità, dice l'Ecclesiaste, questo si apre così il libro dell'Ecclesiaste della Bibbia. Citiamo un altro ancora più famoso. Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è disgraziata a modo suo. quindi Anna Karenina. Tutto è iniziato con un maiale parlante, Mariano Tomatis, edizioni Nero, Incantagioni. Prego Mariano, parlaci un po' del maiale parlante. Grazie per l'invito, il modo splendido con cui mi hai alzato la palla ovviamente vi fa capire che non sarà un incontro di storia usuale, perché iniziamo con un maiale che parla e che magicamente parla. Siamo in un mercato nella cittadina di Mazon, sopra Lione, 1816, conosciamo anche l'anno. C'è una signora, che una contadina poverissima, che sta trascinando dietro di sé questo maiale malandato che non varrà due franchi. Arriva un uomo baldanzoso che scopriamo essere Louis Comte, il più grande illusionista dell'epoca. Immaginate David Copperfield che arriva al mercato e chiede alla donna quanto costi il suo maiale. La donna capisce che quest'uomo la vuole prendere in giro, per cui si schermisce, dice: no, guardi, non è in vendita. Lui insiste: no, mi dica quanto costa, glielo pago sull'unghia. Lei, pur di toglierselo dai piedi, spara 100 franchi, che è una cifra che non ha senso. E Comte, che è un bravissimo ventriloquo, finge la voce del maiale, parla per lui e fa rispondere al maiale: oh, io non valgo una cifra del genere, sono l'animale più triste di questo mercato e questa qua è un'imbrogliona. A quel punto tutti intorno sono paralizzati dall'idea che questo maiale stia parlando, iniziano a prenderlo a pugni, bastonate, rincorrono la donna, l'accusano di essere una strega che in qualche modo, con qualche rito magico, avrebbe dato voce a questo maiale, e lui se la svigna ridendo, perché in realtà stava pubblicizzando lo spettacolo che avrebbe fatto quella sera in paese, il mago ventriloquo. Quando ho trovato questa storia sono rimasto secco, perché mi sono detto: guarda, questa storia c'è tutto. C'è un uomo ricco, potente, bianco, che per farsi pubblicità usa una donna povera e un maiale e aizza contro di lei la folla, e che non solo lo fa, non solo non se ne vergogna, ma fa finire questo racconto nella sua autobiografia, sperando che il pubblico lo applauda dicendo: straordinario. Non lo è, cioè lo è, ma ci racconta che cosa? Che spessissimo la magia è intrisa di sessismo, specismo, classismo, in questo caso del ricco contro la persona povera. E io sono partito da qua, da questo racconto che mi ha abbastanza paralizzato, mi sono detto: oddio, che cosa ci dice della magia? Non è che forse anche noi illusionisti oggi utilizziamo questo tipo di dinamiche sul palcoscenico, con le persone che chiamiamo sul palco prendendole in giro, magari sfottendole per un difetto fisico? E mi sono immaginato che per vendicare questa contadina, che non ha nome, non sappiamo come si chiami perché non è stato tramandato il suo nome, siano venute in suo aiuto non sei uomini, che di solito sono i salvatori della situazione nei romanzi, ma sei donne, sei maghe, che nella loro vita hanno tutte utilizzato la magia e in particolare i trucchi del mentalismo per farsi strada in un mondo che non era fatto per loro, perché appunto è un mondo fatto su misura per noi maschi. E quindi ho scritto un libro che è una storia del mentalismo per la prima volta raccontata con occhi femminili, perché racconto la storia di sei donne, ognuna delle quali oppressa nella sua epoca per i suoi motivi. Sono donne che spaziano dal fine Settecento alla fine dell'Ottocento, ciascuna delle quali ha utilizzato nella propria vita quotidiana, sul palcoscenico, nei propri gabinetti medianici, trucchi dell'illusionismo per emanciparsi. E praticamente questo è il terzo volume della serie di Mesmer, che non ho chiamato Mesmer perché altrimenti uno l'avrebbe confuso con gli altri due, ma mentre i primi due volumi partono dalla figura di Mesmer e arrivano al 1816, questo riparte da lì e racconta come il mentalismo si è sviluppato, ma sui piedi di sei donne. Io ho portato sei oggetti qui, ve li farò vedere uno alla volta, ognuno fa riferimento a una di queste personaggi. Chissà che non vi venga voglia di approfondire la loro storia e di scoprire che la storia del mentalismo l'hanno scritta le donne. E quindi oggi tante delle cose che facciamo sono figlie di questa epoca che è stata completamente rimossa. Faccio una premessa: io non racconto mai storie che siano già su Wikipedia. Se io scopro una storia e la trovo su Wikipedia, la butto via, perché è una storia già raccontata. Io cerco soltanto storie completamente inedite. Perché? Perché se si vuole stupire un mago o una maga, bisogna lavorare, bisogna cercare cose che non siano già in quell'altro libro, non siano già state raccontate. Quindi tutte le storie che sentirete non le troverete su Wikipedia, a meno che qualcuno dei miei lettori o lettrici non le abbiano registrate dopo l'uscita del libro. Il primo oggetto che vi faccio vedere sono sei le personaggi, cominciamo dalla Sibilla moderna. Il primo oggetto che vi faccio vedere è questo numero della Gazzetta Piemontese. Quando era 1800, 52, questo è il giornale del 25 novembre, si acquistava, quando si acquistava il giornale si poteva sedere al caffè, era composto da 4 pagine, era scritto molto fitto, per cui non c'erano immagini, perché le immagini costavano parecchio, gli unici articoli con le immagini erano le pubblicità, perché i venditori, per attirare l'occhio, erano anche disposti a farsi fare l'incisione, che poi potevano utilizzare vari giorni, e dietro la pagina era riservata agli annunci pubblicitari. E qui c'è l'annuncio pubblicitario che parla di consulti di magnetismo della Sibilla Moderna. Che lavoro faceva la Sibilla Moderna? Il sottotitolo del libro dice Incantagioni, storie di veggenti, sibille, sonnambule e altre fantasmagoriche liberazioni. Ora, noi sappiamo che il sonnambulismo è quella roba per cui ci troviamo in cucina nel cuore della notte e non sappiamo come ci siamo arrivate, no? Invece nell'Ottocento il sonnambulismo era un lavoro, si poteva lavorare. Che lavoro fai? Faccio il sonnambulo, o più spesso faccio la sonnambula. Che diamine di lavoro era fare i sonnambuli? Bisogna risalire alle origini. Alla fine del Settecento questo medico austriaco chiamato Mesmer ipotizza che il corpo umano emetta una sorta di magnetismo che non arriva dalle calamite classiche, le pietre, ma emana direttamente dal corpo. Come lo scopre? Lui era convinto che ogni malattia fosse legata a qualche distribuzione malata dei fluidi del corpo. Poiché nel sangue c'è il ferro, lui si diceva, se con delle calamite sposto il sangue nelle zone giuste, c'è un blocco qui, passo la calamita, sblocco e tutto ritorna in ordine. Quindi lui curava le malattie con le calamite. Un giorno dimentica a casa la calamita, dice proviamo con le mani nude, e la persona guarisce lo stesso e si dice oddio, sono io la calamita? Quel giorno nasce il concetto di magnetismo animale, mentre da sempre conosciamo il magnetismo minerale, quello delle pietre, quello delle calamite. Mesmer ipotizza che i nostri organismi siano in grado di trasmettere magnetismo e quindi inizia a curare a mani nude. Uno dei suoi allievi passa le mani davanti a uno di questi malati, questa persona si addormenta e dice ok, ma inizia a parlare. E sotto questo stato che chiamano stato magnetico, poi scopriremo che era in ipnosi, questa persona inizia a descrivere delle cose lontane dalla vista, vede dentro i libri chiusi, riesce a leggere un libro chiuso, riesce a vedere attraverso i muri, riesce a vedere che cosa c'è in una busta chiusa, inizia a descrivere cose che soltanto col terzo occhio si possono vedere. Per la scienza è un terremoto. C'è l'idea che il magnetismo, per la prima volta nella storia, sia in grado di sbloccare le doti psichiche, le doti paranormali, telepatia, chiaroveggenza, precognizione, psicocinesi, tutto grazie a questo stato mentale strano che, come lo chiamiamo? Decidono di chiamarlo sonnambulismo, perché ricorda il sonnambulismo, la persona ha gli occhi chiusi ma parla, può anche camminare ma ha gli occhi chiusi. È in stato di ipnosi, oggi usiamo questo termine. All'epoca ipnosi non esisteva come termine, e sostengono che esista questo stato strano mentale chiamato sonnambulismo. Quindi che cos'è una sonnambula? È in pratica un ecografo portatile che il medico porta con sé davanti a un paziente che dice ma lei qui, che cosa avrò? Oggi faremo un'ecografia, una mammografia, una risonanza magnetica. All'epoca che non c'erano questi strumenti, il medico imponeva le mani alla propria sonnambula, lei cadeva in questo stato mentale in cui le si apriva il terzo occhio e lei passando la mano sulla pancia vedeva occlusioni, tumori, cisti e quindi diceva al medico questo è il problema, il medico prescriveva la cura. Erano degli ecografi umani, spessissimo donne, accompagnate dall'uomo che le magnetizzava, e la Sibilla Moderna questo offriva a Torino, consulti magnetici, consulti di magnetismo. Si andava nel suo studio con il problema, il marito la metteva in questo stato di sonnambulismo e lei vedeva attraverso i corpi. Capirete che nel momento in cui si scopre questa cosa tutti la vogliono vedere, ma bisogna conoscere il magnetizzatore, bisogna andare a casa sua. I magnetizzatori capiscono che c'è della grana possibile se questa roba viene fatta in teatro, ma in teatro è difficilissimo spettacolarizzare una cisti, un'occlusione. Bisogna in teatro far vedere che le sonnambule indovinano cose molto più semplici e verificabili sul momento. Per esempio, che carta ha scelto la signora? E in stato di sonnambulismo, improvvisamente le sonnambule iniziano a fare spettacoli di mentalismo. Il mentalismo, che è quella branca, come ci diceva prima Simone, dell'illusionismo che riproduce i fenomeni paranormali, tutti i fenomeni che utilizzano soltanto la mente per esprimersi, le sonnambule iniziano a fare spettacoli di mentalismo, chiamandoli spettacoli di magnetismo animale. La cosa geniale è che i trucchi che usano le sonnambule sono esattamente quelli che per secoli gli illusionisti si sono tramandati per indovinare la carta scelta, per leggere nel libro chiuso, per vedere, per camminare per la stanza con una benda sugli occhi. Ma in quel momento non è più illusionismo, apparentemente è la scienza più progredita dell'epoca che rende possibili questi miracoli, che non sono più trucchi da illusionisti, secondo lo sguardo del pubblico, ma sono veri esperimenti scientifici, impossibili, incredibili, e il mentalismo nasce da lì. Ancora oggi, se voi andate a vedere uno o una mentalista in scena, davanti a un mentalista vi chiedete, ok, c'è un trucco o magari davvero sta utilizzando quelle tecniche che ci sta raccontando? Guarda se il mio occhio ha vibrato quando ha detto la carta, ha letto dei segnali del mio corpo. Oggi continuiamo ad avere su chi fa mentalismo il dubbio che forse qualcosa di vero c'è. Nasce in quell'epoca, nasce con il magnetismo animale, e tutte le volte che nell'Ottocento troverete spettacolo di magnetismo animale vi chiederete, ma come si fa a spettacolarizzare una cura medica? Così, facendo scoprire cose come le carte, come i libri, eccetera. La Sibilla moderna quindi che cosa faceva? Faceva consulti in uno studio privato, esattamente come Vanna Marchi, e come si faceva a conoscere, a teatro organizzava spettacoli pubblici, per cui a Torino nel 1852 la Sibilla moderna fa vari spettacoli pubblici in cui fa numeri di trasmissione del pensiero col marito per portare la gente in studio a farsi curare per i loro problemi. Problemi soliti, salute, amore, soldi. E perché ho fatto il paragone con Vanna Marchi? Primo, se non l'avete ancora fatto, recuperate la serie su Netflix, perché è una bomba, 4 puntate sulla vita di Vanna Marchi, fa capire più di qualunque corso di mentalismo come si crea un personaggio, come ci si autoattribuisce dei poteri e che pubblico abbiamo davanti quando presentiamo queste truffe. La serie si chiama solo Vanna ed è fantastica. La Sibilla moderna è esattamente Vanna Marchi, infatti finisce anche lei sotto processo, viene anche lei condannata a pagare delle cifre pazzesche, risorge ogni volta delle sue ceneri perché trova sempre nuove persone in grado di cascarci, e ha una storia rocambolesca tra la genialità teatrale di utilizzare il teatro per invitare poi la gente in privato nel suo studio e riuscire a scappare dai vari processi. La ricostruzione del processo è fantastica perché è come leggere Novella 2000. Era estate, i giornali avevano bisogno di storie piccanti, lei in sostanza aveva accusato il marito di una cliente di avere l'amante, molto più giovane della moglie, quindi la moglie arrabbiatissima gli fa una scenata, lui allora dice non è vero, adesso andiamo insieme dalla Sibilla, ma io mi travesto, dico che sono tuo fratello, e ci sono scene da sceneggiata napoletana, per cui cosa c'è dietro questa storia è fantastico, e lo si ritrova riga per riga nei libri, nei giornali dell'epoca. Bisogna avere voglia di farlo, io l'ho fatto per voi perché non è finito ovviamente su Wikipedia, è una storia così assurda e dimenticata, ma che ha a che fare tantissimo con l'oggi, perché oggi quando Striscia rincorre Vanna Marchi fa quello che fanno da sempre i giornali, e nell'Ottocento succedeva alla nostra povera protagonista numero uno. La protagonista numero due invece mi porta a farvi vedere prima ve la introduco. Si chiamava Carlotta Cerino. Costei era una cuoca poverissima che aveva un solo obiettivo: io arriverò davanti al re. Non era banale, cioè è come se oggi qualcuno dice se voglio andare a cena con Elisabetta seconda. Oggi sarebbe ancora più miracoloso perché Elisabetta non c'è. All'epoca il re era Carlo Alberto e lei si era detta, ok, Carlo Alberto ha un mito personale, che è sua madrina, morta qualche anno prima, i Savoia stavano lavorando per fare santa questa Maria Clotilde, e Carlotta Cerrino dice, ok, faccio apparire la madrina di Carlo Alberto, lui lo verrà a sapere, mi vorrà incontrare e io riuscirò ad entrare a Palazzo Reale. Ci riuscirà. E riuscirà a fare un gradino dopo la volta tutta la scalata che la porterà al re. Quando però verrà scoperta, la fine non farà una bella fine. Come si fa a far apparire però una persona morta? Qui le sorelle Fox, che hanno inventato lo spiritismo, non erano ancora nate. È una storia ambientata a Torino negli anni 30 dell'Ottocento, molto prima che gli americani dicessero abbiamo inventato lo spiritismo. Questa cuoca di Carmagnola, non si sa se tramite la ventriloquia, tramite qualche macchinetta ottica, faceva apparire lo spirito di questa Maria Clotilde. Come si fanno a far apparire i fantasmi in un'epoca in cui non ci sono i proiettori, non c'è... Noi lo possiamo sapere leggendo delle cose stranissime, per esempio il visionario di Schiller. Il visionario di Schiller è un romanzo gotico che si studia a scuola e nessuno ci ha mai detto che è un manuale di illusionismo. E non sapendolo, lo colleghiamo a mille altri testi ottocenteschi faticosi, settecenteschi in realtà questo. È un romanzo gotico, ambientato a Venezia, che Schiller ambienta a Venezia, che in realtà scrive quando scopre come Cagliostro fa apparire i fantasmi e dice «No, devo scrivere un libro su di lui». E lo spaccio per romanzo, in realtà è un manuale per far apparire i fantasmi. Come fa Cagliostro? Non posso chiamare Cagliostro per nome perché mi denuncia, lo chiamo il siciliano come Cagliostro. E racconta tutta la storia di Cagliostro, è una truffa che Cagliostro fece nella zona di Venezia, spiegando per filo e per segno come si fa apparire un fantasma in una taverna, con tutta la psicologia collegata delle persone, come devono essere coinvolte. Io quando l'ho letto, un amico che insegna letteratura in Inghilterra, Fabio Camilletti, mi dice: tu non hai idea, io mi è finito tra le mani un manuale di illusionismo, ci vuole un illusionista che mi spieghi come funzionano queste cose. Io leggendolo sono rimasto così esterrefatto che ci siamo detti: dobbiamo fare una riedizione con un apparato critico in cui facciamo vedere che questa roba era come all'epoca si facevano queste robe. Ne ho portate 5 copie, è uscito questa riedizione del visionario con la sua prefazione e la mia postfazione, ve ne dico una sola. Come si fa a apparire un fantasma? Loro prendevano una lanterna magica che non era altro che una scatoletta con un comignolo, perché dentro ci voleva una lampada a olio che doveva in qualche modo avere una via per far uscire il fumo. Questa luce attraversava un tubo, colpiva un vetrino come una diapositiva moderna, dipinto con l'immagine dello spirito, proiettato dove? Su un muro, e sarebbe un po' statica. Loro praticamente avevano un braciere, accendevano il braciere, usciva il fumo usciva in orizzontale, era una feritoia molto larga, ci sono tutte le illustrazioni, quindi è molto chiaro come funzionava, era molto larga la feritoia, saliva uno schermo di fumo, la proiezione che era nascosta in un incavo del muro colpiva questo fumo e dal fumo si vedeva questa immagine che si muoveva, in realtà l'immagine era ferma ma muoversi era il fumo, per cui il fatto che si muovesse il fumo faceva sembrare che lo spirito si muovesse, c'era un ventriloquo o una ventriloqua, Carlotta Cerrino era una ventriloqua che faceva parlare lo spirito. E io che sono abbastanza pazzo come Simone ho provato in cucina, ho provato con un proiettore moderno ovviamente a proiettare sul fumo, funziona ma c'è un problema, la stanza diventa l'aria diventa irrespirabile dopo pochi minuti, quindi mi sono chiesto come diamine facevano dopo 3 minuti a respirare le persone tra il pubblico, cioè la facessimo qui, fra 3 minuti spalancate tutto. E che cosa racconta il visionario? Che dopo 3 minuti si spalancava tutto, perché l'aria era diventata irrespirabile, ma finché non lo provate nella vostra cucina non capite il passaggio di questo romanzo. E a quel punto c'era una persona vestita come il fantasma che entrava dalla porta. E lì l'apparizione era molto più facile perché era un attore o un'attrice che poteva finalmente con la sua voce parlare con i presenti erano già sconvolti dalla prima visione che poi interagivano con costui o costei e poi questo qua scappava e la cosa finiva lì. Il romanzo spiega tutto il montaggio della situazione, l'arrivo della polizia, l'arresto, come in carcere, Cagliostro spiega tutte le cose, ma vi faccio vedere come potete oggi fare una roba del genere in casa vostra a costo praticamente zero. Se avete un telefonino avete tutto quello che vi serve, quindi non è a costo zero, ma se avete un telefonino lo potete fare. Io ho portato qui il mio telefonino con un filmato di un fantasmino che svolazza, eccolo qua, non ve lo faccio vedere ancora, eccolo qui, lo nascondo qua sopra, vediamo se... sì, ok. Questo qua è un tubo di cartone, è semplicemente un tubo di cartone con un buco qui e in mezzo ha un foglio di plastica trasparente in diagonale. Qui sotto ho messo questo telefonino con un fantasmino che si muove. Questo è un fantasmascopio. Come funziona un fantasmascopio? Che voi... forse spegniamo un secondo, sì, le luci? Possiamo passare o spegnere? Sì. In sostanza voi potete guardare attraverso questo buco, vedete tutto quello che c'è attraverso. Aspetta che... se lo faccio passare e vi rendete conto. Vedete tutto quello che c'è dietro, ma attraverso c'è un fantasma che si muove, chissà se... se è giorno voi potete vedere attraverso come se fosse un normale cannocchiale e al contempo vedete un fantasma che veleggia mezz'aria. Ora, questo non è altro che fatto con carta e cartone e un po' di... spento. Dovete mettere uno screensaver un po' più lungo del mio. Che cosa succede praticamente qui dentro? Che c'è un'immagine che colpisce questo fogliettino Poi dopo ve lo faccio anche... Non è attaccato, per cui se lo faccio passare vi cade, ma dopo lo lascio qui, lo potete giocarci. C'è pure le luci, e non è altro che un tubo. Qui c'è una finestra, la finestra vede quello che c'è sul telefonino. Sul telefonino c'è questo fantasmino che semplicemente va avanti e indietro. Se volete il file ve lo condivido, è un GIF animato. Lo metto qui, che cosa succede all'immagine? L'immagine colpisce questo foglio di plastica, che è un foglio di una crystal normale da quadernone, in diagonale, lo colpisce, e che cosa succede? Viene in parte rimbalzato verso di me, per cui io lo vedo riflesso lì, ma essendo trasparente io vedo anche attraverso, quindi vedo sia quello che c'è dietro, sia il fantasma quindi è semi-trasparente, e guardando dentro io posso girare e inseguirlo, e il fantasma mi sfugge sempre, ma come sfondo quello che voglio, quindi io l'ho fatto per esempio a Natale questa pillola, e la pillola nel Natale 2020 o 21, la potete trovare facilmente, l'ho chiamata lo spirito fantasma del Natale presente, faccio la foto al mio albero di Natale e contemporaneamente c'è questo fantasma che svolazza davanti all'albero. Questo metodo non è che la versione moderna di quello dell'epoca, non c'è il fumo ma c'è una lastra in diagonale. Oggi a teatro questo metodo, che è la versione avanzata di quello del Settecento, viene utilizzato in tutto il mondo per far apparire i fantasmi, ed è noto come il fantasma di Pepper. È stato brevettato dagli inglesi, ma ha una storia molto più antica, con un vetro messo in diagonale così, gli attori sono qui, recitano in basso, vengono riflessi qui, il pubblico vede lo sfondo del palco qui e al contempo vede queste figure semi-trasparenti che non capisce dove siano, in realtà questi sono nascosti qui sotto. Se voi non sapete che c'è il vetro, è impressionante perché vedete degli attori muoversi sul palco, evanescenti, li vedete attraverso e sembrano fantasmi. È utilizzatissimo in teatro, nessuno ve lo dice. Quando vedete delle robe succedere, vi dite, ma qua siamo a teatro, non può essere un trucco digitale. Non lo è. È un trucco analogico basato su un vetro semi-trasparente. Questo quindi ve lo potete veramente fare in casa con 4 lire e con il telefonino avete un fantasmascopio. È un regalo anche molto originale, per cui la prima cosa che vi dovrete fare è rifarlo e poi ne farete una serie e vi regalerete. E sono sicuro che farete felice un sacco di persone. E non ho detto bambini, ho detto persone, perché noi adulti ci divertiamo da matti con questa oggettistica e qui lo possiamo dire. Questo è un angolo di Milano dove queste cose si possono dire senza vergognarci. Grazie che lo avete aperto. La nostra terza protagonista invece, il libro è un viaggio, io per raccontare ciascuna l'ho raggiunta nel luogo in cui ha praticato, quindi la Sibilla Moderna l'ho trovata a Torino durante il suo tour del 52, Carlotta l'ho trovata a Belmonte dove ha fatto una seduta spiritica in cui ha fatto apparire la zia, la madrina del re Carlo Alberto, la nostra terza, poi da lì mi sono spostato a Lione, dove opera una sonnambula che ho chiamato psiconauta. Perché la psiconauta è una donna che in stato di sonnambulismo non solo vede le carte, viaggia su altri pianeti e in altri mondi. Vi ho portato a vedere uno dei tanti libri che sono usciti all'epoca, prima della conquista dello spazio, prima che l'Apollo raggiungesse la Luna, prima che le navicelle fotografassero la superficie di Marte. Su Marte, sulla Luna, su Urano, su Giove mandavano le donne in stato di sonnambulismo. Questo libro, meravigliose rivelazioni di una sonnambula che ha visitato in spirito la Luna, Mercurio, Venere, Giove, Cerere, Saturno, Urano e il Sole. Costei nel 1923, molto prima del progetto Apollo, molto prima che la NASA nascesse, eccetera, era già stata sui vari pianeti e li aveva descritti nei dettagli, raccontava le popolazioni che vivevano su Marte, sulla Luna, e siamo all'inizio del Novecento. Era una pratica molto più antica. La prima sonnambula che riesce a fare questi viaggi astrali in stato di sonnambulismo è del 1784, ed è a Lione. Sono andato a trovarla, non c'è più ovviamente, ma nella biblioteca di Lione c'è un quaderno con tutte le trascrizioni dei suoi racconti. Quali pianeti ha visitato lei? Lei era un genio, perché non ha visitato i pianeti, lei ha visitato, come Dante, Purgatorio, Paradiso e Inferno. Com'era andata? Lei era una ragazza poverissima, con una gravissima malattia. I genitori a un certo punto non sanno più che pesci pigliare e le dicono, guarda, c'è questo Mesmer che parla di magnetismo animale, qui a Lione ci sono diversi magnetizzatori, chiedi a uno di loro. Uno di questi, che era un massone, ipnotizza la ragazza, non, come vi ho detto, la parola ipnosi verrà molto dopo, la mette in stato di sonnambulismo e costei si rende conto che costoro pendono dalle sue labbra. Quando lei, come oggi tante sensitive della TV, non so se ogni tanto vi capita, succedeva spesso al Maurizio Costanzo Show, adesso non so che trasmissioni frequentino costoro, ma non so se avete presente quelle che alzano la mano e dicono vedo un anziano qui, che sta, qualcuno ha perso qualcuno di recente, io, ecco, è un uomo con i capelli bianchi che aveva un problema al cuore, e improvvisamente qualcuno del pubblico riconosce il nonno e lei parla con questo qua, gli dice adesso ho la mano sulla tua spalla. Sono personaggi che vedono i morti. Lei vede i morti, li vede nel purgatorio, all'inferno, al paradiso, vede i morti dei presenti e capisce che se lei guarisce troppo in fretta perderà questo privilegio di poter frequentare questi salotti bellissimi e tornerà nel fango da dove arriva. Capisce quindi che deve raccontare a quelli che la stanno ipnotizzando delle storie interessanti, come nelle serie TV ogni puntata deve finire col cliffhanger, no? Climax. Però te lo dico domani, perché lì si risvegliava e diceva, oddio, stavo per riparlare con tua madre che è morta il mese scorso, ma mi ha detto che ci vediamo domani. E questi erano costretti a rinvitarla il giorno dopo, la rimandavano in stato di sonnambulismo, prendevano note fittissime delle sue visioni e lei aveva capito che costoro, volevano pubblicare degli atlanti dell'inferno, purgatorio e paradiso, non inventati, ma veramente visitati tramite uno strumento scientifico che era la sonnambula. Due, volevano parlare con i loro defunti. E quindi costei per mesi e mesi vende queste storie tutte inventate, naturalmente, cui invece costoro credevano ciecamente. E quindi io mi sono immaginato la scena. Maschi, ricchissimi, della nobiltà lionese, che invitano questa ragazza in abiti da malata, con camicioni orribili, in queste stanze ricchissime, e lei che capisce che deve solo fidelizzarli. Fa innamorare uno, quando è lì per cedergli lo mette contro un altro perché invece fa gli occhioni belli all'altro, questi due si odiano e insistono per andarla a prendere loro, un giorno fa dire a uno spirito, come? Devono venirmi a prendere con la carrozza? Adesso glielo dico, quindi non devo più venire a piedi? E mi devono pagare gli studi? Glielo riferisco, allora mi hanno detto gli spiriti che, e questi le pagano gli studi, la fanno viaggiare in carrozza, costei ha fatto hacking del sistema, aveva capito che utilizzando la magia, utilizzando la credulineria di questi massoni, poteva risalire la scala sociale. E quindi noi abbiamo oggi a Lione, in questi quaderni, mappati purgatorio, paradiso e inferno con molta più precisione di Dante Alighieri, grazie a una Dante Alighiera donna, che si chiamava Jean Rochette, che aveva capito il meccanismo e l'aveva hackerizzato. Quando è stufa di questa situazione, si sposa col figlio di uno di questi e smette, perché un giorno fa dire agli spiriti, come dite, da domani non avrò più bisogno di loro per entrare in stato di sonnambulismo. Benissimo, vi ringrazio, guardate, io non ho più bisogno di voi. E questi restano ovviamente paralizzati. La quarta personaggia è la più piccola, è una bambina di 11 anni che diventerà famosa in tutta la Francia perché era in grado di leggere bendata. Siamo all'inizio dell'Ottocento, i medici non si lasciano convincere che questo magnetismo animale funzioni davvero, non ci credono che davvero questa roba apra il terzo occhio, gli viene un'idea. Come James Randi qualche anno fa, mettono in premio un palio. James Randi aveva messo in palio $1,000,000 per chiunque avesse dimostrato di poter fare qualcosa di paranormale con i poteri della mente. All'epoca il dottor Claude Bourdin di Parigi, Accademia di Medicina di Parigi, mette in palio 3.000 franchi per chiunque riesca a fare qualcosa di paranormale. In particolare all'epoca era considerato l'esperimento clou la lettura dei libri chiusi. Costei viene magnetizzata da sua madre e inizia a leggere bendata, con una benda sugli occhi. Io non solo ho ricostruito la storia, leggendo tutti i resoconti dell'epoca ho trovato il libro che lei lesse nella sua prima seduta pubblica di Parigi, che era questo. Perché era così piccolo? Perché i giudici erano stati invitati a portare con sé un libro, questo qua voleva viaggiare leggero, ce l'aveva nel taschino, quindi ha tirato fuori le poesie di Malherbe. Questa è l'edizione letta da Léonide Piger durante la prima seduta, di cui abbiamo un resoconto puntualissimo. Se volava una mosca, il relatore lo scriveva, dove erano sedute le persone, chi aveva parlato, cosa aveva detto. Così tanti documenti belli che non ci stavano nel libro principale, ne ho fatto una seconda. Un secondo volume insieme al volume principale che racconta queste storie. Ho fatto in Cantagioni il dossier che contiene tutti i documenti per andare più a fondo in tutte le storie, tra cui tutti i resoconti di queste sedute. I giudici avevano aperto il libro a pagina 110 e lei aveva cominciato a leggere questa poesia, infatti la prima parola che aveva letto era avant, ed era riuscita a leggere tutta questa poesia pur avendo una benda. sugli occhi. Vi ho portato anche questo perché per immaginare la scena completa dovete immaginare Leonide seduta su questa poltrona, una bambina di 11 anni, con il libro sulle ginocchia e un vetro trasparente sulle pagine. Perché? Perché le antiche presse tipografiche sbalzavano così tanto le pagine che i giudici sospettavano che lei fosse molto abile con le dita a sentire gli sbalzi delle pagine, quindi che passando il dito fosse in grado di rilevare le differenze. Quindi il padre aveva suggerito mettete un vetro trasparente sopra e lei riuscirà comunque a leggere. Quando oggi vedete un mentalista o una mentalista fare un book test, che è la prova in cui stendendo una mano uno riesce a leggere che a pagina 13 di quel libro là c'è scritto fuoco, e poi si va e si verifica che è proprio così, è un numero che affonda le sue origini proprio in questa sfida. Vince? Non vince? Orando così. E lei arrivò a Parigi e i giudici le dissero, allora, deve leggere un libro chiuso. E il papà, no, Leonid non legge i libri chiusi, leggi i libri aperti, vabbè, come noi, no, però bendata. Quindi possiamo noi giudici fornire una benda? No, solo con la benda della mamma. Aia, come mai? Perché è abituata così e ora... Io nel libro faccio coming out, io credo che barasse la bambina, credo che sbirciasse attraverso i buchi del naso, tant'è che quando poi leggerete le descrizioni degli esperimenti, lei di solito quando mi ha bendata corrugava molte volte la fronte e stropicciava il naso, che è proprio la mossa che viene fatta per assottigliare la benda e poter sbirciare. E il braccio di ferro tra la famiglia e i giudici sarà interminabile. E lei intanto però, visto che chi c'è stato sa che Parigi è cara, queste devono stare settimane intere durante questo braccio di ferro, ha detto, senti, facciamo delle sedute private. Quindi, mentre non si è mai fatta una prova pubblica per il premio, rimane in stallo la situazione, finisce così, a casa sua questi qua invitavano tutti gli intellettuali dell'epoca a giocare a carte con lei, a fargli leggere. E lei quindi ha fatto un sacco di dimostrazioni davanti a gente amica, la quale era pronta a firmare documenti che era tutto vero, che lei non poteva vedere, che questa benda era super, eccetera, e la scienza invece non avrà mai modo di testare i poteri di Leonide. Due cose che ho trovato molto belle sono le bende che venivano utilizzate, per cui ci sono delle riproduzioni splendide di queste bende complicatissime realizzate dalla madre, eccole qua, erano strumenti di tortura, anche qui descritti nei minimi dettagli, con il cotone messo in un certo modo. E abbiamo soprattutto delle tavole molto grandi, questa è lei seduta, con il libro che vi ho fatto vedere sulle ginocchia. Un dettaglio che trovo di una poesia incredibile è la sorella che gioca con una bambola su un lato, non gliene frega niente! Se io dovessi fare uno spettacolo di mentalismo partirei da lì, non so come, mi piacerebbe iniziare dicendo, la vedete quella? Non gliene frega niente, questa sera spero che vi alzerete, di far sì che entrati qui dicendo che noia questa roba, invece vi alzerete dicendo no, forse qualcosa di interessante c'è. Ecco, io spero che voi magari entrando siate come la bambina che non gliene frega niente, poi pian piano però diciate, beh, però qualcosa di interessante forse, sì, una robina me la porto a casa, spero che vi portiate a casa qualcosa di da questa serata. Stiamo correndo verso la fine, abbiamo già superato le prime nostre quattro sonnambule. Questo è successo a Montpellier, io raggiungo Montpellier, lei era di Montpellier, da Montpellier, quindi mare, abbronzatura, raggiunge Parigi, invece dove c'è la crème della società che guarda questi chiamandoli non terroni ma qualcosa del genere, ed è bellissimo come questa bambina venga completamente screditata dagli scienziati di alto bordo, e invece i giornali si innamorino di lei, i parigini si innamorano di lei, la scrittrice George Sand racconterà di una partita indimenticabile con questa bambina a carte, e questa partita finirà, in parità, vince la bambina, vince la scienza, io non lo so, è bello pensare che ognuno se la possa raccontare un po' a modo suo. Questa bambina torna a Montpellier e sparisce, noi non sappiamo che fine farà Leonide. Nessuno ne ha seguito il destino, ma un regista qualche anno fa ha partecipato a un festival di documentari e ha scritto un cortometraggio su Leonide Piger, e anche questa è una storia che non è finita su Wikipedia, nessuno la conosce più, eccetera, e mi sono molto divertito a ricostruirla andando a recuperare i racconti dell'epoca, e mi fa una simpatia questa bambina che comandava tutti a bacchetta, tipo c'è un momento in cui si arrabbia con un giudice, gli tira addosso una pallina di carta, gli fa apparire un messaggio mandandolo a quel paese, un personaggio veramente inaspettato. Non sono tutte adulte, quindi le sei protagoniste di queste pagine, avrete capito che sono tutte delle belle personaggette, sono tutti personaggi amorali, nessuna di loro è un esempio, forse non ne sposerei nessuna delle sei, però sono donne che si fanno ricordare perché hanno utilizzato la magia e il mentalismo in modi veramente inaspettati. La mia preferita forse è Prudence Bernard, l'ho incontrata a Tolosa dove ha fatto i suoi numeri più importanti che ci sono, perché voglio quasi chiudere con lei, poi dopo faremo un piccolo inciso sulla sesta, ma perché Prudence è passata da Milano. Non solo è passata da Milano, tutte le artiste della lettura del pensiero, della chiaroveggenza, tutte le sonnambule, tutte le magnetizzatrici partivano dalla Francia, facevano un tour francese, raggiungevano Lione e entravano in Italia. L'Italia era il mercato normale, esauriti i palchi francesi, attraverso Torino, per cui Torino era la città dove c'era la prima di tutti gli spettacoli di mentalismo e dopo Torino, Milano. Quindi io che arrivo da Torino sto seguendo esattamente il percorso naturale del mentalismo che arrivava a Lione, Torino e poi Milano. Molto spesso i giornali di Torino erano impegnati in altre robe perché all'epoca il governo era Torino, e come oggi se succede una roba a Roma ha poca copertura, mentre se succede a Voghera ne parlano tutte, era più o meno così all'epoca. Gli spettacoli di mentalismo lasciavano qualche traccia, troverete sul dossier tutti gli articoli usciti su Prudence, sulla Sibilla Moderna in Italia, degli spettacoli torinesi, ma quando arrivavano a Milano era una bomba. Milano era già evidentemente molto sensibile al giornalismo. Sul caso di Prudence Bernard abbiamo tre relazioni scientifiche scritte da tre equipe mediche lunghissime, 30 pagine l'una, in cui per filo e per segno ci sono questi medici intorno a questa donna vendata che cercano di capire come diamine questa riesca a spostare col potere della mente l'ago della bussola, come farà Uri Geller negli anni 70. E quando lo fa Uri Geller diciamo genio, ha inventato. No, Prudence Bernard nel 1850 a Milano faceva la stessa cosa. Come la faceva? E poteva farlo solo perché era una donna. Lei, leggendo i giornali parigini, aveva scoperto che c'era un medico, il dottor Nicole, che vendeva un busto magnetico per curare le malattie. Ancora oggi li vendono sui giornali, quelle robe, i braccialetti che vi tolgono la gotta, la roba che ti fa passare... Perché il magnetismo è un po' un'energia che continua a vendere, a convincerci che qualcosa di curativo ce l'ha. All'epoca vendevano un busto che lei poteva indossare sotto gli abiti. Nessuno poteva perquisire una donna, ovviamente non si mettevano le mani addosso alle donne, per cui ho detto, beh, io arrivo allo spettacolo con il mio busto, mi avvicino alla bussola, questa deviera, e così succedeva, e trovi in queste relazioni scientifiche medici incantati, dire, noi siamo partiti scettici, convinti di assistere a uno spettacolo di illusionismo, ma no, quello che va in scena è poteri della mente, costai devia con la mente l'ago della bussola, psicocinesi. Le stesse reazioni degli scienziati odierni con Uri Geller, che si chiedono come diamine fa questo a spostare la bussola col pensiero, come faceva Prudence Bernard. La storia, regolarmente la cosa che faceva più scalpore erano i numeri di trasmissione del pensiero che faceva col marito. Lei era bendata, il marito scendeva tra il pubblico, chiedeva oggetti comuni, una persona tirava fuori un rossetto e da laggiù lei, in qualche modo, col terzo occhio diceva rossetto. Leggeva i numeri di serie delle banconote, indovinava le cifre in tasca delle persone, perché tra marito e moglie si era creata una comunicazione non verbale talmente sottile che i due riuscivano a comunicare all'insaputa di tutte. Oggi, se avete visto le ultime edizioni di Sì, tu che vales, forse? Serie di talenti... diversi illusionisti, diversi mentalisti utilizzano ancora queste cose, e trovate dei thread sotto i video di YouTube pazzeschi, perché oggi nel 2022 ancora questi segreti sono custoditi alla perfezione. All'epoca erano ancora migliori, e lo si scopre leggendo le vari resoconti, perché tra i due i segni verbali non erano costituiti da parole ma da versi, erano dei micro segnali che qualche giornalista particolarmente sensibile aveva colto, ma altrimenti i giornali erano esterrefatti dalle doti psichiche di questa coppia, marito e moglie, Gli aspetti poi che rendono lei un personaggio straordinario sono che a un certo punto si capisce che il marito la menava, perché in scena a un certo punto lei sbaglia una parola, lui le tira i capelli, la tira per terra, e il pubblico non reagisce, non è normale, una donna va menata quando... E lei che cosa fa? Lo manda a quel paese. Quest'uomo sparisce dalla circolazione, lei si trova un altro, lo prende con sé, lo educa e diventa il suo nuovo partner di scena. Per un po' di anni, perché poi si stufa anche di questo, mette da parte ancora quello, ed è una donna che non gliene fregava assolutamente nulla di essere la seconda personaggio in scena. Lei doveva sempre comparire col suo nome e cognome sui manifesti, mentre praticamente tutte le altre sonnambule erano sempre la donna di, la moglie di, la sibilla moderna, il nome qual è? Lei invece voleva sempre che Prudence Bernard uscisse sulla locandina. Conseguenza, io ho trovato tutti gli articoli su di loro, perché il suo nome c'era sempre. Genio. E la cosa più assurda che hanno fatto però è questa. Non qualcuno di voi è nella fascia dei tra i 25 e i 35? Ryota è One Piece. Ce l'ha. Allora, qualcuno riconosce questo oggetto? Un macofono. Questo è un oggetto che più o meno tu hai qualche anno in più dei 25, ma lo hai riconosciuto. È un lumacofono. È un personaggio della serie anime giapponese One Piece. Quello di Oda, deciso Oda. Tu secondo me lo conosci meglio di me, perché io non seguo la serie, ma ho dovuto... È andato al numero 101, il fumetto più lungo di tutti. Ah, ecco, quindi è partito come fumetto? Io avevo 25 anni. Ah, ecco. Allora, probabilmente mi puoi correggere tu. Questo è un oggetto che viene utilizzato come telefono. Nella stessa telefono, sì. Che parla la lumaca, per far impazzire. Qui c'è il disco per fare i numeri, perché una volta erano così i telefoni... E però parla lei, quindi lei si fa interprete del parlare, ma anche della suoneria, na-na-na, tipo, vero? E quindi questi sono, nel mondo di One Piece, sono comunemente utilizzati come telefoni, ma sono chiamati lumacofoni, dendemushi in giapponese. Perché vi parlo di questo oggetto in relazione a Prudence Bernard? Perché costei ha portato i lumacofoni in scena, e perché la storia dei lumacofoni nasce a Parigi nel 1850. Un tizio brevetta la comunicazione senza fili. Immaginatevi in un mondo dove non ci sono i telefonini, dove le onde radio non sono ancora state scoperte, esiste solo la comunicazione via cavo, quindi i telegrafi ci sono, la comunicazione senza fili sono i telegrafi ottici, in cui c'è una macchina che fa questo gesto, la vedono a 30 km di distanza e rifanno lo stesso gesto perché qualcuno la vede e lo tramanda. Questo era il modo, e viaggiavano veloci questi messaggi, ma non come ovviamente senza fili. Costui prende due lumache, le fa accoppiare, le due lumache fanno all'amore, vengono separate, e durante questo incontro scambiano qualche fluido tra di loro, per cui accarezzando questa lumaca l'altra all'istante rizza le antenne, perché tra le due si è creato un legame perfetto che a distanza di tempo e di spazio si mantiene, quindi capisce che questo può essere utilizzato per mandare messaggi. Come? Questa prima coppia è la coppia A, incolla la lettera A dietro il dorso della prima coppia, accoppia altre due lumache che sono la B, accoppia le C e intanto le separa, e installa in due bussole rotonde che invece di avere i quattro punti cardinali hanno le 21 lettere dell'alfabeto, ognuna collegata a una lumaca, 42 lumache che hanno fatto l'amore a coppie due alla volta diventano due apparecchi telegrafici. La chiama, la telegrafia escargotica, la escargot, la lumaca, e fa una presentazione pubblica davanti ai giornali, che quindi titolano: la comunicazione a distanza senza fili è realtà ed è scienza. E costui fa vedere che, questo sarebbe perfetto un locale così, qui abbiamo la prima, di là c'è la seconda, decidiamo la parola da mandare. La parola era gymnasio, la prima parola ginnasio. Quindi iniziano, lui accarezza la G e di là G, perché la G ha rizzato le antenne. Y, esterrefatti sui giornali titoloni, la comunicazione a lumache. Costui ha addirittura anticipato lo smartwatch, perché immagina un giorno in cui si riusciranno ad allevare lumache abbastanza piccole da poter essere installate su orologi non da polso ma da taschino, per cui si potranno mangiare gli sms accarezzando le letterine. Io mi sono spinto oltre, immaginando delle orge, posso immaginare che se tre lumache vengono unite, allora si possono fare tre bussole, nasce internet, cioè la rete diventa rete in cui io mando un messaggio in broadcast, tutti riceviamo come nei gruppi Telegram il messaggio. Non sono arrivati così in là, internet non c'era ancora nell'immaginario. Che lui brevetta il metodo, inizia a ricevere tutti i finanziamenti per produrre a larga scala questa cosa. Immagina che la prima dovrà essere Parigi, New York, per cui i giornali dicono: pensate comunicare dall'altra parte dell'oceano in maniera istantanea? Che cosa si fa quando si ha la cassa piena di soldi pronti per, su come oggi Kickstarter, queste robe lì? Si scappa col bottino, ovviamente. Lui scappa col bottino, era tutta una truffa, non era minimamente vera questa cosa. C'era un trucco nella comunicazione andata in scena davanti ai giornali, ma se la notizia ha un titolone, le smentite di solito richiedono più tempo. È scappato. È ancora qui. Dov'è? Non siamo in un'epoca in cui la comunicazione è chiara, per cui per mesi a Parigi tutti vogliono vedere la telepatia Lumache, che oggi qualche giapponese, io non so come si sia imbattuto in questa storia e l'ha fatta finire in One Piece, per cui nessuno dei lettori di One Piece conosce le origini di questo oggetto, che invece sono qui. Tutta Parigi vuole vedere questa cosa e non può farlo. Cosa fa Prudence col marito? Cambiamo spettacolo. Fino a ieri facevamo la lettura del pensiero banale. Proponiamo alle 10 della sera, sotto il passage Jouffroy, il più bel passage parigino, uno spettacolo che avrà come clou alle ore 10 la telepatia scargottica, che io e te facciamo all'amore, è abbastanza noto, siamo marito e moglie, è cosa risaputa, tutti sanno che uno scambio quindi quotidiano di energie, fluidi magnetici c'è, e quindi con questa venatura erotica mettono in scena tutte le sere, al clou dello spettacolo, la trasmissione del pensiero con le lumache. Il marito indosserà delle strane piume che lo faranno somigliare a una lumaca, è una roba... che quando vedete questa immagine al Museo della Magia di Parigi, e non lo sapete, vedete un uomo bizzarramente addobbato. Quando poi capite perché indossava... Allora, qui sono loro a Torino. Questa è un'immagine splendida, questo è il primo spettacolo di mentalismo mai dato in scena in Italia, a Torino nel 1850. Purtroppo le lumache vengono brevettate il mese dopo, quindi in Italia non abbiamo visto questo numero, ma qui, vabbè, piccolino, ma lui ha queste antenne che lo fanno assomigliare a una lumaca. E quindi entra e lui riceve con le antenne i messaggi della moglie. Ora, che cosa fanno loro? Non fanno altro che parassitare una storia che era in circolo, promettere che avrebbero fatto vedere una roba che in realtà era tutt'altro, rifare gli stessi giochi che avevano fatto fino al giorno prima, ma con una storia diversa. È come quando siete stufi della skin del telefonino, la cambiate e sembra nuovo. È esattamente la stessa cosa. L'illusionismo fa questo da sempre. I trucchi sono sempre lo stesso, ma vestendoli con nuove skin sembrano sempre nuove. E serate come queste servono per capire che se veramente ci collochiamo in questa prospettiva storica, non è tanto inventare il trucco, quello è sempre lo stesso, ma è confrontarci per dire quale nuova skin potrebbe funzionare. Se all'epoca funzionavano le lumache, oggi cosa potrebbe funzionare? Questo è il ragionamento che ha fatto il mago Alexander. Alexander è insieme a Tony Binarelli e Silvan, la triade della magia dell'Italia nei 70, 80 e 90. Alexander fa uno spettacolo di mentalismo e si dice: io non posso ovviamente parlare di lumache. Oggi nessuno la conosce più, nessuno ci crederebbe più, ma tutti sanno che nella meccanica quantistica esiste un fenomeno chiamato entanglement, per cui il fenomeno delle lumache succede davvero, accade. Se un elettrone collegato a un altro elettrone, quindi che stanno facendo all'amore, vengono separati e io faccio ruotare l'elettrone qui, l'elettrone che era stato collegato al primo per un certo tempo ruota nella stessa direzione. Ancora oggi gli scienziati si chiedono come avvenga questa comunicazione. C'è chi dice che la telepatia funzioni in questo modo. Che cosa fa Alexander? Fa uno spettacolo in cui presenta il mentalismo con la chiave della meccanica quantistica. Lo spettacolo si intitola Sinassi e durante lo spettacolo invita una spettatrice a raggiungerlo sul palco e le dice: adesso tra me e lei si creerà un legame mentale, gli elettroni della mia mente si collegheranno agli elettroni della sua, lei penserà alla carta che ha scelto e me lo comunicherà in questo modo. E parlando dell'entanglement, il pubblico si chiede: oh, l'entanglement è vero? Chissà che lui non abbia trovato il modo per dominarlo in scena. Oggi Alexander usa la bugia convincente per il pubblico odierno. Ieri era l'olmaca, oggi è l'entanglement. Che cosa si fa in un circolo di illusionisti e illusioniste? Ci si chiede: domani come la aggiorniamo questa roba? Domani che cosa funzionerà? Io me lo sono chiesto. Domani quale verità scientifica strana potrebbe funzionare? Vi lancio lì un'ipotesi. Stiamo registrando l'incontro. Se nel 2122, fra 100 anni, qualcuno lo riascoltasse, potrebbe dire: aveva visto avanti sto Tomatis, oppure si era sbagliato in pieno. Oggi si parla molto di nanotecnologie, dicono che ci inietteranno nel sangue dei robottini piccolissimi che andranno ad aggiustarci, eccetera. Ma se nanotecnologie non si vedono, quindi questa stanza potrebbe essere satura di micro droni, di dimensioni microscopiche. Chissà che domani la mentalista del 2100 non dirà: signore e signori, voi sapete che la moderna tecnologia, cioè, ha riempito il nostro mondo di droni nanotecnologici. Signora, lei ha appena scelto una carta, si concentri, adesso i micro droni usciranno dalla sua mente e mi porteranno un'informazione. È un 3D cuori, vero? Ecco, ha funzionato? Grazie. E forse nel 2100 l'idea che ci sia la nanotecnologia non si vede ma magari c'è, sarà credibile, diranno wow, forse quello che ho visto è vero. Sarà di nuovo una bugia, ma sarà di nuovo la bugia giusta per quell'epoca. Simone, leggendo il libro, ha trovato un'altra roba di Prudence Bernard. Dico, no, io ve lo tenevo, questo un intervento mi sarei tenuto dopo per i maghi, allora... Vuoi farlo dopo, preferisci? No, come vuoi, vabbè, ormai... Dai, dico, ci siamo. Per i maghi, allora, Prudence Bernard faceva questo gioco di visione a distanza, faceva una presentazione secondo me anche molto bella, che anche oggi sarebbe molto impressionante, in cui lei iniziava a cantare, e il suo, diciamo, il prestigiatore scendeva tra il pubblico, toccava una persona, quando toccava una persona lei smetteva di cantare, quindi aveva percepito a distanza che lui stava toccando. Ma c'era una variante che adesso vi leggo dal libro. Allora, nell'ultimo dei tre appuntamenti la coppia aggiunse il numero dello specchio, una variante del gioco del canto, che è quello che ho appena detto. Quando il magnetizzatore veniva toccato da una spettatrice, alzava un braccio e la sonnambula faceva lo stesso, pur trovandosi a una certa distanza. E quando il tocco si interrompeva, l'uomo e la donna lo abbassavano contemporaneamente. Questo effetto, circoli, ha vinto Fulas. Esattamente questo effetto qua, che è descritto, che è stato usato ben prima di circoli. E quindi, no, questo ha... diciamo a riproporre l'idea che l'illusionismo non è una tradizione vetusta che dobbiamo vedere come qualcosa, quanti erano belli quei tempi, ma adesso invece è una cosa ancora attuale, successo letteralmente l'altro ieri. Quindi basta, mi taccio. Tra l'altro un altro meccanismo moderno, grazie. Grazie Simone. Un altro meccanismo uguale a oggi è il ruolo di YouTube. All'epoca YouTube non c'era, ma le reazioni di chi lasciava i commenti erano le stesse. Come funzionava? Invece di YouTube c'erano i giornali. Prudence Bernard faceva un numero di lettura bendata. Il giornalista in sala capiva, esattamente come sotto il video di Fulas, oppure che ne so, di Tiger Got Talent, cioè compare il messaggio, ah, ha usato il trucco. Il primo giornalista il giorno dopo sul giornale dice, sono stato a vedere Prudence Bernard, è chiaro che si era unta una tempia, quindi la benda aveva ceduto e era riuscita a sbirciare. Che cosa fa Prudence il giorno dopo? In scena dice, come gli illusionisti che vanno a vedere i propri video, vanno a leggere i commenti che spesso rivelano il vero trucco, tornano un giorno dopo dicendo, ieri hanno raccontato che usavo una goccia di olio qua, invito tutto il pubblico a venire a vedere che non uso questo, e anzi, oggi utilizzerò questa benda che mi copre completamente non solo metterò la benda, ma addirittura mi metto un cappuccio di tela spessa sulla testa. In questo modo, benda e cappuccio sono assolutamente opachi. Alza il tiro, deve alzare il tiro perché i giornali l'hanno beccata. Oggi si alza il tiro di fronte al commento su YouTube, tipicamente tra una esibizione e l'altra, Fulas, Got Talent, eccetera, passa un po' di tempo, per cui chi fa illusionismo può vedere le reazioni del pubblico e può ripresentarsi rifacendo la stessa cosa con un livello di difficoltà maggiore. L'illusionismo cresce e progredisce grazie a questo, grazie a una battaglia costante tra io ti incanto, poi arriva qualcuno che mi disincanta. Allora io ti incanto di più e tu mi ridisincanti, allora io cerco di incantarti ancora di più. Tutta la storia della magia è questa lotta eterna tra incanto e disincanto, incanto e disincanto. Che cosa fa lei in sostanza in risposta alla macchia di olio, che era la spiegazione corretta, che trova su YouTube? Il giorno dopo si presenta con benda e sacco sulla testa, fa provare diverse persone e dicono, beh, se già non si vede attraverso la benda, figuriamoci attraverso benda e sacco. In realtà è geniale lei, perché nessuno dei due da solo, nella benda, nel sacco, sono opachi. Lo sono se li si mette insieme. La persona li prova entrambi, giura a tutto il pubblico che sono opachi, lei indossa la benda e mentre si mette sul sacco, tira giù la benda. Quindi il sacco serve a nascondere che lei si è tolta la benda. Sotto il sacco non c'è la benda, vede, per qualche settimana la cosa regge. Poi finalmente c'è sempre chi arriva al commento su YouTube, che all'epoca si chiamava l'eco, i giornali tutti li ho trovati, li ho tutti tradotti, troverete tutti, tutta questo braccio di ferro è meraviglioso, una donna sola contro tutta la stampa, che dicono, beh, usa questo trucco, è chiaro che andate a vederlo, la sgamerete, lei lo legge, come si presenta in teatro con un sacchetto di sabbia, terracotta. Eh? Sì, dicono che io utilizzo il trucco... Puerile, guardate che cosa facciamo, versava questa terracotta in una terrina, aggiungeva l'acqua, si faceva plasmare sulla faccia una maschera, aspettavano qualche minuto che diventasse rigida, perché era una maschera di pietra, lei con questa maschera di pietra continuava a vedere e a leggere, e ci sarebbero volute settimane prima di scoprire, lo spoiler davvero tutto, mi spiace, che... No, non ve lo dico. Sapere, sì, comprate. Vero. Perché poi ovviamente la cosa continua così ed è bellissima. È la storia di una donna, ma se siete uomini godete uguale, perché è la storia di una persona che non accetta mai il dato. Questo, lì sei e lì... No, io sono altrove, ed è sempre altrove. Devo dire che non è un libro motivazionale, ma io ne ho tratto tanta motivazione, perché sembra che l'impossibile per queste artiste non ci fosse. E condannate in qualche modo a mantenersi in quello spazio lì, perché quello è il loro spazio, concesso a una donna, queste lo violano ad ogni piè sospinto, utilizzando dei trucchi sempre più elaborati. Per noi illusionisti e illusioniste è una goduria, perché anche a noi piace quando un collega ci fa un gioco rifarglielo in modo più impossibile. È un piacere, è una sorta di lotta tra maschi alfa che nei circoli magici si vede tantissimo. Ah, aspetta, te lo rifaccio, ma con... No, questo come hai fatto? Arriva il terzo che ve lo fa in un modo che inganna i primi due, ed è un continuo, perché poi uno inizia a fare magia con i mazzi truccati. Quindi ho comprato il mazzo Svengali, per dire, non vi dico com'è, ma è un mazzo con cui fate miracoli. Il primo step è imparare a fare gli stessi giochi col mazzo ordinario, che quindi puoi chiedere in prestito a un amico. E quando tu fai a un mago più bravo un gioco col mazzo Svengali, lui ti dice, te lo rifaccio col mio mazzo, che è normale. Prima reazione è rimanerci malissimo, poi anch'io voglio. E nei circoli magici c'è questa ricerca sempre del più impossibile, più impossibile, più impossibile. La storia della magia è questo, un superare continuamente i limiti per incantare sempre di più. Ed è bello, io trovo belli entrambi i ruoli, sia dell'incanto sia del disincanto. L'incanto perché è splendido incantare il pubblico. Il disincanto è cercare di capire il trucco, e la magia vive su questa polarità. L'ultima personaggio del libro è anche la più complessa e la più sfigata di tutte. Io sono cresciuto negli anni 80 con i primi videogiochi, quindi la mia mente probabilmente dopo tante ore di videogiochi si è un po' plasmata su quelle logiche, e mi accorgo rileggendolo che il mio libro ha la stessa struttura. 5 livelli di un videogioco in cui ogni livello devi imparare delle mosse particolari per arrivare alla fine di ciascun livello. Ogni livello ha delle difficoltà diverse. In un caso devi imparare a saltare bene, nell'altro a sparare bene, nell'altro a schivare bene, eccetera. E poi il sesto livello, il mostro finale. Lì devi mettere a frutto tutti i metodi che hai studiato nei primi livelli, altrimenti non lo superi. Il libro è uguale. 5 donne che ognuna deve superare qualcosa di diverso, difficoltà diverse, in ambiti diversi, e poi la sesta, che si becca addosso tutte le difficoltà delle prime, senza conoscere le prime, quindi senza sapere come l'hanno risolte loro. Come sono arrivato a scrivere quest'ultimo capitolo? È ambientato a Orléans? Sono partito dal libro La magia bianca svelata di Henri de Krems. De Krems è l'autore francese del Settecento più importante che sia mai esistito, perché quando vede l'enciclopedia di Diderot, il libro fondamentale che ha cambiato la storia della conoscenza, perché in un'unica opera c'era tutto lo scibile, si dice... Nell'enciclopedia manca una parte sulla magia, la faccio io. Pubblica 5 volumi tra il 1784 e il 1790 in cui spiega tutta la magia disponibile dell'epoca, e voi non avete idea del livello di ragionamento teorico che c'era dietro. Non ne avete l'idea perché il libro non è mai uscito in italiano. È una cosa folle, il primo sì, gli altri 4 no, ed è veramente un peccato che non sia mai stata tradotta, tanto che da un annetto insieme a un amico, Gianluca Bertuzzi, lo stiamo traducendo, perché vogliamo uscire con i 5 volumi di De Krems. Questi libri sono pieni di immagini strane, ve ne faccio vedere una sola da cui sono partito. L'immagine è questa, c'è praticamente questa strana donna vista di lato con una specie di cornetto che le esce dalla bocca, qui dietro c'è una scatola con una donna più piccola denudata, c'è la parte sopra nuda, la parte sopra una veste, indizi, che cos'è sta roba, che cosa può essere questa immagine. Perché l'ultimo capitolo è la storia di questa donna in questa scatola. Bisogna leggere il capitolo. Il capitolo parla di una bambola che veniva, che era appesa in mezzo alla stanza. Era una bambola in cui De Crème diceva esserci un meccanismo molto sofisticato in grado di parlare, ma questo era il minimo, perché diverse bambole all'epoca parlavano, avevano iniziato a riprodurre meccanicamente i meccanismi della voce, per cui qualche parola riuscivano a dirla. Questa non è che parlava, faceva discorsi, rispondeva alle domande, la gente entrava, parlava con questa bambola e questa bambola rispondeva, e tutti vedevano che non c'era trucco. In realtà questa è la spiegazione del trucco: c'era una comunicazione segreta con un armadio a muro dentro cui era segregata una donna in carne e ossa che doveva passare lì intere giornate a far parlare la bambola. Lei era la voce della bambola, la comunicazione avveniva tramite un passaggio che non si vedeva per come era montato il trabiccolo, ed era la voce della bambola. La bambola parlava grazie a una donna. E io mi sono chiesto, primo, non avrei voluto essere questa donna, secondo, non avrei voluto essere questa donna nei giorni del ciclo, o se mi scappava la pipì, o se dovevo tossire, perché mio marito mi avrebbe appesa se avessi dovuto tradire la mia presenza e mi fossi lamentata, eccetera. Non doveva essere una vita facile la vita di questa poveretta, chiusa nell'armadio per dare la voce a una bambola. Mi sono detto, io voglio scoprire chi è, che vita faceva, come la trattava il marito, dove viveva, ha avuto figli. L'ultimo capitolo è la storia di costei, si chiamava Marie-Joseph Stevens. Il suo lavoro era ancora un po' diverso da questo. Qui è come lo racconta De Crème nel 1785. 15 anni dopo, l'illusione era ancora più strana. Questo mago diceva di aver trasformato la moglie e averla resa invisibile, le aveva fatto bere una pozione che rendeva invisibili, diceva di averla chiusa dentro una sfera di vetro, per cui lo spettacolo cui si assisteva pagando 3 soldi a Parigi era entrare in una stanza come questa con una sfera di cristallo appesa al centro, con 4 cornetti acustici che uscivano dai 4 lati, e la gente andava, la interrogava, diceva che cosa indosso qui, e la voce disincarnata della moglie dal centro della sfera diceva una camicia nera, e come ho i capelli scuri, e hai l'orologio, sì, nella mano sinistra. E costei in pratica era invisibile dentro la sfera. Il trucco era questo, cioè la donna era chiusa in un armadio, costretta lì per intere giornate dal marito, perché era il modo della famiglia per sbarcare il lunario. Il marito era quello che si beccava gli applausi, e la moglie invece era la forza lavoro che doveva un po' restare nascosta. Oggi abbiamo Alexa. Alexa parla con voce femminile, disincarnata. L'esperienza era quella di Alexa, ma nel Settecento, quando Alexa non era mai stata vista, interagiva, era intelligente, rispondeva, se le si chiedeva di cantare, cantava. L'ultimo capitolo racconta, si intitola La donna invisibile, perché il numero è rappresentato come La donna invisibile. Ho trovato il nome di costei, ho scoperto chi era, ho scoperto chi era il marito, ho scoperto che quest'uomo aveva avuto una figlia, ho scoperto che a un certo punto questo lo manda a cagare, perché non ne può più, e lui praticamente scappa, anche inseguito dalla polizia, perché evidentemente la donna era riuscita anche a dimostrare che costui gliene aveva fatta qualcuna di troppo. Seguo la carriera di questo tizio, e dove lo ritrovo? A Milano. Costui a Milano viene a presentare La donzella invisibile. Trovo vari articoli in cui gli italiani offesi da questi francesi che credono di farcela, invece no, questo usa un trucco. Aveva la nuova compagna che era tedesca, che quindi rispetto alla versione francese si poteva discorrere anche in tedesco con la sfera, oltre che in francese, credo in italiano. E qui a Milano ha una figlia che si chiama Ersilie. Ersilie cresce, fa la pianista, eccetera. Un giorno si risveglia in manicomio, sparita davvero, da un giorno all'altro. Quella che per la moglie di suo marito, moglie di suo padre, era un'esperienza scenica abbastanza angosciante, per costei diventa la vita, cioè lei si risveglia invisibile agli occhi del mondo, perché alla sua famiglia hanno detto che è morta. Lei è chiusa in una cella di un manicomio, non sa perché, quindi è un'esperienza kafkiana per definizione, e si chiede come fare a uscire da un posto dove qualunque frase si pronunci è la frase di una folle e quindi non viene creduta vera. Costei si risveglia invisibile in una cassa dalle pareti non sfondabili, perché è la cassa è la cella di un manicomio. Verrà portata in 6 diversi manicomi per tutta la Francia e griderà la sua innocenza, di più che l'innocenza. Io sono una persona normale, non merito di essere qui, chi mi ha messo qui? E deve risolvere un problema che la madre ha risolto mandando a quel paese il marito. Per lei l'incubo è al quadrato, cioè lei non è solo invisibile come sua madre, ma la sera in fondo si torna, si esce dalla cassa e si può ricominciare a vivere. Lei diventa invisibile a tutti gli effetti. La prima domanda che si fa è: che relazione c'è tra la mia invisibilità in manicomio e il lavoro di mia madre? Sarà la figura di mio padre, un illusionista che è impazzito? Perché chi mi ha chiuso qui? Perché sono finita qui? L'ultimo capitolo è il risveglio di una donna, che la cui matrigna faceva la donna invisibile, che diventa davvero invisibile. È un'esperienza assolutamente, non so come dire, angosciante, da incubo. Il problema che deve risolvere è un svariati ordini di grandezza più difficile rispetto a quelli delle precedenti. Ma la cosa straordinaria è che lei utilizza le tecniche del padre, che era illusionista, che la portava con sé nei vari tour, e quindi ha imparato tutta una serie di tecniche, per esempio quella con cui i mentalisti riescono a farsi arrivare delle informazioni in scena senza farsi vedere. Lei riusciva a comunicare con l'esterno del manicomio utilizzando dei metodi da mentalista, e soprattutto a un certo punto ha l'idea che, in qualche modo, non vi dico come finisce la storia perché ovviamente vi rivelerei il finale della saga. È una storia vera, che è folle, che finisce a Orléans, nel manicomio di Orléans, non vi dico ovviamente se finisce bene o male, ma a un certo punto ha un'idea fantastica. Lei si rende conto che deve assolutamente trovare alleanze da fuori, come più o meno avviene in tutti i film di fughe. Bisogna sempre riuscire ad avere una basista fuori. Lei però è morta, nessuno la sta cercando, i familiari sanno che non c'è più. Riesce in qualche modo a aprire questi contatti e in particolare si sintonizza sulla discussione. Non c'era Facebook, ma è come se ci fosse. Riesce a capire che in quel momento tutti parlano di QAnon. Ce l'avete presente il complotto che ha portato in piazza i sostenitori di Trump, che sostengono che esiste questa fonte chiamata Q, che rivelerebbe che Trump è il cavaliere che ci salverà dalla sinistra mangia bambini americana. Insomma, è una teoria del complotto universale che da un po' di anni ha preso piede in America tantissimo, è arrivata anche in Italia. Facebook li rincorre per chiudere le loro pagine, perché poi diversi anche omicidi sono stati eseguiti da seguaci di questa teoria che appunto ipotizza questo complotto universale, eccetera. Quello che ho scoperto è che QAnon, questa teoria moderna legata a Trump, ha le sue origini in quell'epoca. I fatti che venivano raccontati nella Francia di quegli anni sono assolutamente identici a quelli che oggi vengono raccontati su Facebook. Me ne faccio uno solo, vi faccio solo un caso. I seguaci di QAnon ritengono che sotto Central Park, a New York, i ricchi d'America tengano nascosti e segregati dei bambini da cui traggono del sangue con cui le persone ricche sostituirebbero il sangue per avere l'immortalità. Una delle peggiori succhiatrici di sangue sarebbe Hillary Clinton, che quindi sarebbe così giovane perché utilizza il sangue dei bambini sepolti e tenuti nascosti come talpe sotto Central Park. All'epoca, sotto Orléans, i ricchi erano accusati di nascondere, di rapire i bambini e tenerli lì, perché avrebbero cambiato le facce di questi bambini per sostituire i regnanti in storie degne delle storie del Maschera di Ferro. Insomma, le stesse identiche storie che oggi si raccontano con Trump, all'epoca si raccontavano su Napoleone, su Luigi XVI e sulla sopravvivenza dei Borbone. Che cosa capisce lei? Che l'unico modo per uscire è quello di fottere il sistema, ovvero iniettare una teoria del complotto completamente fasulla, ma che faccia accendere qualche lampadina nelle persone che su Facebook dell'epoca, cioè i giornali, i pamphlet, eccetera, stanno discutendo di queste cose. E quindi che cosa fa? Trova una stampa delle Borboni, la cui poi dinastia chiuderà, e a un operaio dice: oh, ma hai visto come le somiglio? Io sono sua figlia. Come? Io sono l'erede dei Borboni, è per questo che mi hanno chiuso qui. Mi vogliono tenere qui? Lei non ha idea del perché è lì. Si inventa una balla che però deve essere convincente per rompere il lucchetto che la tiene in prigioniera. Che cosa succede? Che all'esterno del manicomio qualcuno ci crede e i peggiori complottari dell'epoca, quelli che oggi diremmo nerd, con cui non vogliamo neanche passare una serata, eccetera, si prendono a cuore il caso e l'aiutano a uscire. Poi se ci riusciranno meno non ve lo anticipo, ma personaggi che oggi diremmo sono il peggio della feccia di internet diventano gli eroi della nostra storia, perché costei riesce a ingannarli sfruttando una loro credulità e per la prima volta ci troviamo davanti al caso in cui la credulità, invece di essere condannabile, è da premiare, perché grazie alla credulità di costoro, costei riesce a ricavarsi un varco per uscire dal manicomio. Io spero soltanto di avervi dato l'idea di quanto possa essere folle un libro che parla di magia, quando come regola ci si dà quella di non fermarsi a quello che si è sentito raccontare per anni. Cioè, quando si rifiuta di riprendere i vecchi libri e raccontare sempre le stesse storie, ma si prova a entrare nelle conversazioni dell'Ottocento o del Settecento, ci si mette a leggere i quotidiani, ci si mette a seguire le polemicuzze sulle note dei giornali, vengono fuori storie allucinanti. Io di questo ho riempito questo libro, che dai feedback che sto ricevendo è una piacevole lettura per chi fa magia, perché scopre che quello che fa è già mappato, è già stato fatto in modi anche molto più originali di quelli di oggi. Per chi non ne sa niente, la reazione è: ma la magia è tutta sta roba, non l'avrei mai detto. Ha a che fare con la politica, ha a che fare con la società, ha a che fare con le questioni di genere, ha a che fare con il sessismo, con lo specismo, con il classismo. E questo libro cerca di raccontare tutte queste cose in questo modo surreale, partendo da un maiale e finendo in Valsusa, con una bacchetta magica trovata per terra semibruciata che sollevo per aria per chiudere il libro. Se la cosa vi diverte, ne ho qualche copia qui, altrimenti semplicemente è stata una bella serata. E se avete domande, curiosità, sì, perplessità... Io una domanda ce l'avrei. Mi è sorta la curiosità di come persone così povere, eccetera, o erano... delle geniali creatrici di trucchi di magia, o chi come me è nato in un periodo di non internet sa quanto era già difficile tramandare 30 anni fa, tramandarsi i segreti dei maghi, come facevano a tramandarsi i segreti, cioè come faceva una povera cuoca di provincia a sapere o a ingegnarsi così tanto. Era geniale lei o c'era una rete? Io credo che siano vere entrambe le cose, perché cose del genere non nascono nel deserto. Cioè, c'è un sapere sotterraneo che circola fuori dai libri, non mappato, e che spesso è in opere che noi illusionisti non leggiamo più. Per esempio, Il Visionario, io non avevo idea che un romanzo gotico potesse essere un manuale di illusionismo, finché uno studioso di letteratura mi fa: guarda che questa è roba vostra, e mi accorgo che per esempio queste informazioni passavano nella letteratura popolare. Se noi però leggiamo solo i libri, i Card College, che è il nostro libro moderno, la Bibbia di chi fa cartomagia, oppure i libri di Tony Corinda sul mentalismo, sono i libri da leggere, sono i classici. C'è però una letteratura popolare che evidentemente si trasmetteva a queste robe che circolavano nel popolo di bassa estrazione, ed evidentemente poi c'era anche tutto un sapere legato alle fiere, ai girovaghi, ai mediconi che arrivavano nelle varie piazze per avere sempre nuovi pubblici, dentisti, che portavano sempre qualche gioco di prestigio e poi vendevano il libretto con i segreti, per cui... A me piacerebbe moltissimo che chi dovesse ripartire per cercare esattamente questa cosa, cioè come hanno fatto a saperlo, ciascuna nella sua città, no? A Torino, a Orléans, eccetera. Secondo me io studierei questo doppio gioco, cioè in che modo c'è traccia di questi rapporti di segretezza orizzontali tra persone di bassa estrazione sociale che per mantenersi sono costrette a utilizzare questi segreti e anche comunicarseli come anche merce di scambio. Io ti spiego come faccio questa polvere per sbiancare i denti, tu in cambio mi spieghi come hai fatto questo libro che è bianco, poi soffia e diventa colorato, che erano due cose proprio tipiche vendute all'epoca. E al contempo, che tracce hanno lasciato nella letteratura? Io sono convinto che fuori dai libri di illusionismo ci siano un sacco di notizie di questo tipo, che però uno non sapendone non le trova. Venendo, sto riascoltando l'audiolibro del Cimitero di Praga di Umberto Eco, che non è un libro di illusionismo, ma a un certo punto Eco racconta l'iniziazione di una persona in una setta massonica, ed è esattamente la descrizione che ne dà Schiller. Eco non studiava illusionismo, avrà letto secondo me Schiller, la ricostruisce esattamente come fa Schiller. A un certo punto un personaggio ipnotizza una donna e mi, leggendo ho capito quale libro citava, cita un libro di inizio 800 che io cito nei miei mesmer, perché il rituale è esattamente quello, cioè ecco, senza saperlo sta tramandando queste cose in opere non di magia. Per cui una cosa interessante se fate illusionismo è provate a uscire dal circolo dei libri classici, perché si può trovare un sacco di robe. È una roba affascinante, perché poi c'è invece il genio personale. Io non ho trovato traccia in tutta la storia di altre artiste che utilizzassero la terracotta come maschera. Per cui questo secondo me potrebbe essere stata una sua idea. Chi però ha visto Fuoco cammina con me, che è il prequel di Twin Peaks, a un certo punto c'è il personaggio di un bambino che fa l'illusionista e ha una maschera di forse non è terracotta, sarà cartapesta, stranissima, perché ha gli occhi chiusi, un naso lungo, quindi non consente di vedere. Io come David Lynch abbia immaginato questa maschera non lo so, dubito che abbia pensato Prudence, ma a me il collegamento viene e ve lo racconto, e ora il collegamento esiste perché ve lo sto dicendo. Un altro collegamento interessante è che il teatro dove si è esibita la Sibilla moderna è quello dove Dario Argento ambienta l'inizio di Profondo Rosso, in cui la sensitiva vede l'assassino e quindi nella scena dopo verrà uccisa. Non vi ho spoilerato niente perché la prima scena e la prima morte è quella della sensitiva. Io sono convinto che Argento non sapesse che su quel palco 150 anni prima si era esibita la Sibilla moderna negli stessi numeri, ma oggi noi quando vediamo le due storie non possiamo non vederle sovrapposte. Ed è interessante perché la storia si fa anche così, facendo notare dei clash, delle coincidenze, chiedersi, boh, sono delle idee che si rivelano e usano noi umani per tornare? Dario Argento è stato parassitato da una larva spiritica che è rimasta in quel teatro e lo ha costretto a raccontare quella storia? Io sono un materialista e non ci credo, ma mi piace iniettare il sospetto che questo sia.